Quando si pecca, tra virgolette, si pecca in due. Ma poi lui se ne torna tranquillo alla sua vita e a sua moglie, mentre lei rimane rovinata e condannata per sempre col frutto della colpa, tra virgolette. Quante volte l'abbiamo sentita questa storia? In questo romanzo, Cenere, tuttavia, l'autrice, Grazia Deledda, trasforma la giovane Olì, che è presente solo nelle prime pagine del romanzo e nelle ultime, in protagonista occulta del romanzo. La sua figura è continuamente presente poiché il figlio, che in quanto maschio ha potuto avere comunque una buona vita grazie al sacrificio della madre e alle tante persone che si sono prese cura di lui, incluso il padre e sua moglie, il figlio è in realtà fin da piccolo ossessionato dal pensiero di ritrovarla e così la ricerca della mamma si trasforma in ricerca della madre. Con la M maiuscola, la madre perduta che il destino e il patriarcato ci hanno tolta, lasciandoci orfane e soli. Con il suo linguaggio arcano e carico di parole antiche e con le atmosfere della Sardegna rurale primitiva che riportano al mondo magico delle Llanas, Grazia Deledda, magnifica portavoce del diritto negato delle donne alla felicità, racconta una storia che risuona dentro, poiché è la storia della massima tra le ingiustizie, quella di punire una madre per aver dato a luce la sua creatura. La disgraziata fine di Olì è la fine di tante che sono state sedotte e hanno pagato da sole il prezzo di essersi fidate. Come già in Cosima, la cui lettura integrale potete ascoltare sul nostro canale della Scuola delle Donne al link che vi lascio qua sotto in descrizione, Grazia Deledda prende con empatia e affetto le parti delle donne, dei loro diritti negati e della forza che devono trovare per scappare dal carcere della condizione femminile. La terra sarda, poi, arida e avara, sembra essere origine e prolungamento dei personaggi stessi, dando vita a una tragedia sul modello di quelle dell'antica Grecia, basate sulla colpa, la hubris, e il suo riconoscimento, la nemesis, la punizione, pathos, e l'insegnamento che se ne trae, mathos. La terra di Sardegna, coi suoi paesaggi primitivi e duri, diventa il teatro della rappresentazione del dramma che si ripete lungo tutta la storia umana. Storia che Grazia Deledda dimostra di conoscere bene, scrivendo a proposito del banditismo: anticamente gli uomini andavano alla guerra, ora non si fanno più guerre, ma gli uomini hanno ancora bisogno di combattere e commettono le grassazioni, le rapine, le bardanas, non per far del male, ma per spiegare in qualche modo la loro forza e la loro abilità. Tutto nei suoi romanzi sa di ancestrale, i sentimenti che appartengono a una civiltà ancora primitiva, la lingua scarna e selvaggia nel suo uso di parole dialettali come la natura stessa. Nel discorso pronunciato durante la cerimonia di consegna del Nobel per la letteratura a Grazia Deledda nel dicembre del 1926 venne citato proprio un brano tratto da Cenere. Sì, tutto era cenere, la vita, la morte, il destino stesso che la produceva. Eppure, in quell'ora suprema, davanti alla spoglia della più misera delle creature umane, morta per il bene altrui, egli ricordò che fra la cenere cova spesso una scintilla, seme della fiamma luminosa e purificatrice, e sperò e amò ancora la vita. Cenere, a nostro avviso il miglior romanzo di Grazia Deledda, divenne anche un film muto nel 1916, l'unica interpretazione cinematografica di Eleonora Duse, due grandissime donne, Grazia ed Eleonora, unite per raccontare l'atavica disgrazia femminile, quella di essere datrici di vita in un mondo patriarcale. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura di Cenere di Grazia Deledda, Mondadori Editore, da Devana. Buon ascolto.